24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Paola Nania. Oggi parleremo di Libia e dell'idea da parte dei paesi della coalizione di non intervenire con truppe di terra, ma sostenendo con armi i ribelli. Ipotesi questa non ufficialmente smentita. Le operazioni in Libia fanno scattare anche l'allerta attentati nei paesi coinvolti, ma Eli Carmon, tra i massimi esperti di terrorismo intervistato dalla nostra redazione, spiega che al momento il rischio è più all'interno del paese che non all'esterno. Ci occuperemo anche del flusso migratorio che preme sui confini dell'Europa, l'Italia ma anche la frontiera francese, del declassamento del Portogallo e di sport. E partiamo, come dicevamo in apertura, dall'operazione in Libia. Si era parlato nei giorni scorsi di truppe britanniche e francesi già sul campo nel paese di Gheddafi. Una teoria che pare tramontata. Nonostante il vertice di Londra ufficialmente lo abbia escluso, invece resta in campo l'idea di armare i ribelli. L'inviato in Libia, Alberto Negri. Armare i ribelli? È chiaro che i bombardamenti aerei da soli non bastano. I ribelli in realtà non sono in grado di minacciare più di tanto le forze di Gheddafi, mancano di armi pesanti, mancano di organizzazione, mancano di una tattica sul terreno e anche di una logistica. Ieri, che ho visto nella loro ritirata, per esempio avevano problemi per l'approvvigionamento alimentare, ma soprattutto per la benzina. Questo significa che in realtà del gran parlare che si era fatto dei consiglieri militari francesi e britannici che potevano in qualche modo dare una spinta decisiva all'ordine di battaglia dei ribelli, sul campo si è visto ben poco. Ecco quindi l'ipotesi di armarli, con tutto quello che consegue, perché in realtà a questo punto la risoluzione delle Nazioni Unite per la protezione dei civili in Libia non basta più. Serve qualcos'altro che implichi anche un intervento internazionale sul terreno. Un'allerta terrorismo è stata trasmessa dai servizi segreti britannici ai paesi che partecipano all'operazione in Libia. Estremisti libici minacciano di fare azioni eclatanti contro gli stati della coalizione. Gheddafi può pagare, ma ora credo che il rischio attentati sia più all'interno della Libia, dice Eli Carmon, tra i massimi esperti di terrorismo alla guida dell'Istituto Israeliano di Antiterrorismo. Lo ha intervistato Raffaella Calandra per la rubrica Storiacce. Migliaia di libici sono andati all'estero, adesso posso ritornare giustamente e formare la base di un movimento, di un gruppo jihadista dentro della Libia. C'è questa possibilità di un'ondata di terrorismo dentro della Libia o a partire dalla Libia. Ci sarà principalmente sia contro il Gheddafi o possono attaccare anche dei obiettivi occidentali, diciamo di quelli che oggi aiutano i ribelli. Un'analisi dell'MI5, dei servizi segreti britannici, segnala proprio delle tracce investigative che farebbero pensare al rischio di azioni. Leggendo un po' quello che dicono di forum jihadisti connessi con i libici, è possibile che facciano dei attentati dentro della Libia contro obiettivi del petrolio. A mio parere non vedo adesso questi gruppi andare in Italia o in Francia o in Spagna e organizzare attentati in quei paesi, salvo se realmente ci sarà una presenza forse terrestre. Gheddafi è in grado di scatenare questo inferno che minaccia? Servizi di intelligence libici erano più attivi durante gli anni 80, quando hanno fatto gli attentati gravi contro gli aerei americani o francesi, però se lui riesce a sopravvivere lui può pagare per fare alcuni attentati, per influire sulla volontà dell'Occidente, paesi europei principalmente, di lottare contro il suo regime. E ora gli arrivi di immigrati dal Maghreb verso l'Europa. Alle richieste di intervento europeo in Italia risponde la commissaria agli affari interni Cecilia Malmström. L'Italia ha molte risorse messe a disposizione da Bruxelles e le deve solo usare. Dai fondi per i rimpatri volontari e per i rifugiati a quelli per la gestione delle frontiere e per l'integrazione, ha spiegato la commissaria. L'Italia è uno dei principali beneficiari. Deve solo usare questi soldi. E intanto i profughi dal Maghreb dopo l'Italia premono ai confini francesi. Sono in centinaia respinti dalla gendarmeria alla frontiera di Ventimiglia. Raffaella Calandra ha intervistato il sindaco della città, Gaetano Scullino. Oggi siamo in seria emergenza, i francesi hanno intensificato i controlli a tutti i valichi di frontiera, non c'è nessuna possibilità di superarli e quindi 20.000 è diventato un tappo, non è più gestibile una cosa del genere. In questo momento a 20.000 quante persone ci sono? Nell'ultimo giorno e mezzo si sono verificati per almeno quasi 300 persone, sono tutti fermi alla stazione è impraticabile e quindi la mia preoccupazione è dei prossimi treni che arrivano. Secondo lei, Sindaco, c'è una situazione che può portare a delle emergenze sia per il turismo che di tipo sanitario? Soprattutto per il turismo e di tipo sociosanitario. Non c'è possibilità di farsi delle docce, non c'è possibilità di cambiarsi. Vera emergenza, devono essere fermate. Quindi dei respingimenti prima che arrivino a 20 miglia? Bisogna bloccarli prima. Ecco, Sindaco, in un certo senso voi vi sentite come cittadini di Lampedusa in questo momento? Fatte le dovute proporzioni, proprio come dice lei. Intanto adesso siamo in super emergenza. Se continua così ancora 2, 3, 4 giorni, allora veramente è un disastro. Lei nota che cresce un po' di insofferenza anche nella popolazione? L'insofferenza è già alle stelle da parte della popolazione, nel senso che tutti quanti ci dicono cosa aspettate per fare qualcosa, nel senso, logicamente, perché non è sostenibile. Oggi noi non possiamo più gestire. Teme che la situazione in un certo senso possa portare anche a forme di protesta da parte della popolazione? È un rischio che io intravedo. Sull'emergenza immigrati è intervenuto anche il ministro dell'interno italiano, Roberto Maroni. Questa emergenza straordinaria l'abbiamo gestita da soli, l'Italia, il Ministero dell'Interno in particolare, perché non ci è venuto in aiuto nessuno, né l'Europa né gli altri paesi. E la stiamo gestendo con fatica, con difficoltà, ma la stiamo gestendo. Abbiamo chiesto, continuiamo a chiedere, continueremo a chiedere solidarietà delle istituzioni europee e degli altri paesi. Devo incontrerò il ministro dell'interno francese per discutere con lui di questa questione, che mi pare veramente surreale. Siamo nell'area Schengen e ripristiniamo le barriere. L'agenzia americana Standard & Poor's ha tagliato il giudizio sul debito di Grecia e Portogallo. Per Lisbona si tratta del secondo abbassamento nel giro di 4 giorni, con il rating che tocca il livello più basso. Per l'agenzia, Lisbona dovrà probabilmente fare ricorso al salvataggio internazionale e alla ristrutturazione del debito. Su questo Sebastiano Barisoni ha sentito l'economista Paolo Savona. Il mercato non è convinto dei provvedimenti che l'Europa ha preso e quindi ritiene che il rischio di default, di insolvenza del debito pubblico di questi due paesi sia cresciuto, non si sia ridotto. Allora, in questo quadro, che direi una crisi possa sfiorare anche l'Italia, non è oggi probabile, ma è sempre possibile. Non è probabile perché la situazione generale, pur stagnando dal punto di vista della produzione e dell'occupazione, non sta peggiorando. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per gli Stati Uniti nel 2011 meno 0,2 punti al più 2,8%, mentre rivede leggermente al rialzo quelle di Eurolandia, più 0,1 all'1,6%. Nella bozza del World Economic Outlook, il Fondo Monetario aumenta anche la stima del PIL italiano di 0,1 punti all'1,1%, ribasso invece di 0,2 punti per il Giappone come effetto della catastrofe prodotta da terremoto e tsunami. E continuiamo a parlare di economia con il focus sull'andamento delle borse. Chiusura positiva per i listini europei che per un giorno hanno messo da parte i timori sul nucleare giapponese e le tensioni sui paesi più deboli dell'eurozona, in primis Grecia e Portogallo. A Milano il FTSE MIB ha guadagnato l'1,01% e il FTSE Share l'1,02%. Il settore bancario, che martedì era stato duramente penalizzato dall'annuncio di un aumento di capitale da 1 miliardo per UBI Banca, ha riguadagnato parzialmente terreno. Bene soprattutto BPM, salita del 4,2% dopo il sofferto no del CDA alla ricapitalizzazione da 600 milioni di euro proposta dal presidente Massimo Ponzellini. Forti rialzi infine per Enel Green Power, che ha chiuso a più 5,61%. Con il nucleare in forte discussione in tutto il mondo dopo la tragedia giapponese, gli analisti sottolineano come la società italiana attiva nelle rinnovabili possa essere la carta vincente del gruppo Enel, tanto è vero che anche la controllante ha chiuso in rialzo dell'1,83%. Guido Maurizio. Taurino, da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Il premier spagnolo Zapatero ha confermato che la centrale nucleare di Garona, nel nord del paese, in attività dal 1970, sarà chiusa come previsto nel 2013. In un intervento davanti al Congresso dei Deputati sulle conseguenze dell'incidente nucleare in Giappone, Zapatero ha anche confermato che in tutte le centrali del paese saranno verificati i sistemi di sicurezza e in particolare le norme di tenuta antisismiche. Si profila un conflitto di interesse europeo nello shopping nel calcio italiano dell'americano Di Benedetto. A ipotizzarlo il Guardian, che ricorda come Di Benedetto abbia interessi anche nel Liverpool. Accordo raggiunto sull'AS Roma, ma manca ancora la firma, che dovrebbe arrivare entro 20 giorni. Sembra una contraddizione, ma è l'esito della trattativa serratissima per la cessione del club alla cordata americana capitanata da Thomas Di Benedetto. Dopo un confronto di 2 giorni nello studio Grimaldi di Roma, ieri notte è stata diffusa una nota congiunta di Unicredit, Italpetroli e della Di Benedetto per annunciare l'intesa sui termini fondamentali del passaggio di proprietà. Confermata la struttura dell'operazione, che prevede il completamento dell'acquisizione attraverso una società al 60% della Di Benedetto e al 40% controllata da Unicredit. Nella 2 giorni romana, secondo quanto si apprende, è stato raggiunto anche l'accordo sul prezzo. Per arrivare alla firma degli accordi, tuttavia, la Di Benedetto AS Roma dovrà presentare le garanzie necessarie. Entro il Natale di Roma, si augura oggi il sindaco Gianni Alemanno, il club di Francesco Totti potrebbe dunque cambiare proprietario. In questo caso però, afferma il Guardian, si profila un conflitto di interessi per Di Benedetto, azionista del Fenway Sport Group, che ha una partecipazione nel Liverpool. Ciò potrebbe portare all'esclusione della AS Roma dalle coppe europee. Simona Rossitto, da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Per il basket, grande impresa di Siena che in gara 3 dei quarti di finale di Eurolega, vale a dire della Coppa Campioni Europea del basket, batte l'Olympiakos 81-72 grazie ai 24 punti del serbo Jaric. Oggi sempre a Siena gara 4, con una vittoria toscani qualificati alla Final Four. Il presidente dei campioni d'Italia, Ferdinando Minucci, intervistato da Dario Ricci. Una bellissima partita, una partita che noi dovevamo vincere, ovviamente, dopo la grandissima prestazione di gara 2 ad Atene. Avevamo molta pressione, siamo riusciti a entrare in partita presto e devo dire, con uno Jaric così è stato abbastanza semplice poi mantenere il piglio giusto durante tutta la partita. Adesso la Final Four a un passo, forse ora il problema è proprio mantenere la lucidità, no? Visto che il traguardo sembra così vicino. La Final Four è una partita, quindi ma bisogna vincere una partita. Dobbiamo rimanere lì giustamente concentrati per cercare di portare a casa questo risultato che veramente sarebbe incredibile. In chiusura, tra gli appuntamenti del giorno vi segnaliamo la seduta plenaria del Comitato Regioni dell'Unione Europea che si riunisce a Bruxelles. Questo è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.